di starmene da solo e sono nato storto, messo male al mondo. La testa non funziona, a volte me ne accorgo e mi spavento ritrovandomi a parlare solo. C'è sei un dio, pecchi di presunzione, se mi chiedessi un angelo cos'è? Qualcuno a mano armata e con il viso tondo mi aiuterebbe a sterminare te. Cento di me. Accetto la mia sorte e il mio angolo di strada e piango perché al mondo ci sono altri come me e pago questo al mondo per altri come me. Godo della corsa solitaria tra i suoi frutti, l'odore che risale nascosto tra i suoi campi. Respiro forte e tiro tutta l'aria della terra, esplodo in un attimo tutta la mia vita. Sorte il mio angolo di strada e piango perché al mondo ci sono altri come me e pago questo al mondo per altri come me. Godo della corsa solitaria tra i suoi frutti, l'odore che risale